La Germania è emersa in questo anno e mezzo come il paese che più seguita assieme a alcuni paesi del nord Europa, Olanda in primis, e che dava più lezioni agli altri, e è apparsa appunto come la prima della classe, come quella che bacchettava i paesi che non hanno risanato i conti. Ripeto, sbaglierebbe qualcuno immaginare che vi fosse anche un messaggio politico alla Germania. Stai attenta a non pensare di essere... Mi dica. Non c'è un secondo obiettivo in quello che dice il segretario generale, peraltro riflettendo le posizioni espresse nero su bianco dal rapporto che è stato presentato oggi. La Germania è il paese più forte e più importante dell'economia dell'area euro, ma anche il primo della classe può migliorare a beneficio suo e degli altri. Questo è il messaggio. I compiti a casa li devono fare i primi della classe e gli ultimi della classe. Ecco, ieri, e vorrei concludere su questo, dottor Padoan, ieri Angela Merkel ha fatto capire che forse la posizione intransigente tedesca, no, non si aumenta il fondo per salvare gli stati, si è un po' ammorbidita, l'ipotesi che possa salire dai 500 miliardi attuali ai 700 miliardi. Secondo lei che cosa ha fatto cambiare idea alla Merkel? Il fatto che forse la Germania si è resa conto che se continua a frenare l'Europa continentale pure le loro esportazioni andranno male? Ma guardi, io credo che il governo tedesco abbia ben chiaro quello che è la posta in gioco, cioè se o meno l'euro possa sopravvivere. Questo problema non è stato tolto dall'ordine del giorno. Poi la signora Merkel, come molti altri capi di governo, ha un problema di consenso interno in cui l'opinione pubblica tedesca e anche il Parlamento tedesco forse ha una visione come dire, più domestica dei problemi da affrontare e non vede fino in fondo la necessità di un'azione collettiva. Tutti devono fare la loro parte, ci deve essere anche una dimensione europea che si deve tradurre anche in fatti, da qui per esempio la richiesta avanzata dall'OCSE di avere un fondo salva stati molto più robusto, a cui ovviamente il paese più ricco dovrebbe partecipare in misura proporzionale. Ma ha prevalso un po' di individualismo in Germania, secondo lei? Un po' di così? Che si arrangiassero gli europei? L'individualismo c'è da tutte le parti. D'altra parte, ripeto, non vorrei sembrare retorico, ma l'Europa richiede uno sforzo collettivo.